volare. Cioè volare. Oh, oh, oh, oh. Cantare. Lo voy a seguir cantando. lo so, la canta anche Giorgina, certo. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Noi non abbiamo perso perché l'arbitro ha sbagliato, non abbiamo perso perché non abbiamo giocato bene, ma ho visto molte partite qui in Italia e la linea di arbitraggio non è la stessa. Non è la stessa per tutte le squadre. Io sento che noi non siamo una squadra che fa tante falte, che sono cattivi, che giustifichi tanti cartellini gialli. Sarà bene in questa fase smorzare gli animi. Ci sono state delle situazioni che ovviamente il presidente ha esternato dopo una partita contro la Juventus, che però magari ha avuto l'impressione nell'ultimo periodo in maniera particolare che ci siano stati degli episodi non valutati alla stessa maniera e soprattutto magari penalizzanti per la squadra. Questa sera lei andrà a letto bestemmiando oppure domani Dybala? Ma guarda, io sono un bipolare, mi chiudo nel mio ufficio e penso da allenatore e arrivo a certe conclusioni, esco dall'ufficio, mi scordo di essere un allenatore, mi sono innamorato di calcio e penso a altre cose. È normale che pensi questo quando mi estraneo dal ruolo dell'allenatore, quindi ho paura di essere bipolare. Posto che Sarri è bipolare, ciao Giovanni Capuano. Eccoci qui, ciao. Ma soprattutto Sarri da oggi è il capopopolo di noi, minoranza silenziosa. Siamo al 45,5, ma ci siamo anche noi, quelli che ieri sera non hanno guardato Sanremo. Non hanno guardato Sanremo, poi faremo sentire a Bartoletti martedì. Sarri for president. Sarri che dice, no, ho guardato un film. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Ciao, è curioso come Fonseca aderisca al partito commesso adesso dopo aver preso 4 fischi a Reggio Emilia con Sassuolo e aver fatto 4 punti nelle ultime 5 partite, no? Ma sì, però adesso guarda, cioè, ti dico, ogni squadra ha il suo file, ogni squadra ha le sue recriminazioni. Sappiamo che le recriminazioni in assoluto pesano psicologicamente di più delle situazioni fortunate, ma questa fa parte proprio della mente umana, si tende a ricordare le cose dove ti hanno fregato e magari un po' meno le cose dove invece sei stato fortunato. Io trovo che, tanto per essere chiari, l'errore più grave che la Roma ha subito quest'anno in stagione sia stato fuori dal campionato italiano, perché quello che è successo in Roma a Borussia Mönchengladbach tra andata soprattutto e ritorno enorme, è qualcosa di incredibile. Sì. In campionato adesso francamente il file faccio fatica, il ragionamento che lui fa è un po' sui falli, no? Cioè sugli episodi piccoli, mi pare, non ha fatto un discorso. Sì, è sembrato così anche a me, però. E però poi ci butta lì quella cosa, non è uguale per tutte le squadre, per tutti. Che nella settimana della riapertura del partito del PC, partito dei complotti, oggi siamo a tribuna politica, ovviamente viene riassorbito dagli anti-juventini, soprattutto, diciamo la verità, nel discorso di commisso, e quindi diventa non è uguale per tutte le squadre. Tutti a scartabellare il rapporto tra falli e ammonizioni della Juventus. È chiaro, che ma poi, più o meno lì, che poi bisogna contestualizzare anche il momento. Mai che uno comunque venga a dire queste cose quando è in striscia di 8 vittorie. Questo è anche normale. Uno dei dati, visto che hai fatto questo discorso del rapporto, adesso non voglio fare l'avvocato difensore, come ben sai non me ne frega niente, però uno dei principali argomenti utilizzato dai tifosi della Juve quando si parla di questo tema è invece quello dei rigori, dove oggettivamente si vede, se si valutano le ultime stagioni, che la Juve ha avuto complessivamente, statisticamente, pochi rigori rispetto alla quantità di situazioni create. Di no, minuti che ha giocato nell'area avversaria. Che era un tema anche all'epoca del Napoli, se ti ricordi. Cioè, noi giochiamo tanto nell'area avversaria e abbiamo pochi rigori. Poi allora aveva un'altra teoria. Secondo me, rimango fermo a quello che dico da Poi magari cambia idea fra 5 giornate, ma cambia idea sempre in un'ottica di casualità dell'errore, che ci può stare, perché non è che gli errori non esistano. Cioè, la cosa che qualcuno fa fatica a capire o finge di non capire è che uno può sostenere che ci siano degli errori arbitrali, che ci siano dei periodi in cui una squadra è più o meno fortunata con gli arbitri, senza per questo entrare nel partito dei complottisti, perché ripeto, il giorno in cui io entrerò nel partito dei complottisti andrò a fare aprirò un ristorante con Oldani e vado a fare altro. Cioè, io il giorno in cui entrerai avrai la tessera numero 90 milioni, perché non ci entro per un discorso prima di tutto perché veramente allora smetterei di seguire il calcio, ma poi anche perché oggettivamente secondo me non è così. Cioè, io ogni settimana ci sono episodi, li valutiamo, riguardano varie squadre e, l'esempio più eclatante è stato l'Inter, Inter-Atalanta, c'è cioè, sicuramente una situazione arbitrale favorevole all'Inter, poi vai a Lecce, poi c'è il Cagliari e se lo ribalta, sul quale si può discutere, quella, cioè, però, voglio dire, però Pier, per usare una frase che a te piace tanto, il dato politico della settimana, il dato politico della settimana è che siamo arrivati all'inizio di febbraio ed è iniziata la lunga discesa verso la fine del campionato e da qui in poi saranno veleni, perché le parole di Commisso, che ha avuto il suo sfogo, è andato anche lungo, diciamo, riguardo a una partita che è stata arbitrata male, ma non eterodiretta a favore della Juventus. Le parole di Fonseca, che ha buttato lì un ragionamento teorico, ma chiaramente è stato interpretato immediatamente in una certa maniera. Tutte queste cose, con in più l'aggravante che vengono da due stranieri appena sbarcati nel calcio italiano, e quindi questo dovrebbe renderli lontani dalle nostre, dalle nostre polemiche, dal nostro modo di interpretare il calcio, tutto questo si è saldato immediatamente e ci ha restituito, e lo vedremo già da domani, il campionato dei veleni, dell'anti-juventinismo, poi magari fra due settimane in testa l'Inter diventa il campionato dell'anti-Inter, che viene portata su dagli arbitri, e noi andremo avanti così fino alla fine di maggio. E io devo dire, non ci hanno reso un grande servizio Commisso e Fonseca. Cioè, ogni tanto bisogna anche stare attenti a quello che si dice. Allora, ma io sono d'accordo, cioè, soprattutto quando poi si allude a una possibile, però questo direi che non lo so, mi sembra più il caso di Commisso, onestamente, quello di Fonseca. Commisso che ha avuto un'uscita a caldo, io sono d'accordo con quello che ha detto Gravina l'altro giorno, cioè Commisso ha avuto una reazione che è veramente sbagliata e irricevibile dei toni. C'è, al di là del fatto che c'è comunque un livello di fluency nel parlare della lingua italiana che è molto alto, ma non è esattamente quello di un madrelingua al 100%, c'è anche questo elemento qui, secondo me, visto che ero in diretta su DAZN mentre lui stava parlando, no? Detto questo, non giro intorno al ragionamento. Lui ha detto delle cose importanti, pesanti e gravi. Secondo me ha sbagliato a dirle, lo dico sinceramente, perché nello specifico di quella partita ci sono stati degli errori sicuramente, ma non è stata una partita nella quale l'arbitraggio in maniera incontrovertibile abbia influito sul risultato. A volte succede, raramente succede, ma qualche volta succede che un arbitraggio possa influire nel risultato. Roma, Borussia Mönchengladbach ti pischia un rigore ridicolo che non c'è mai nella vita, all'ultimo minuto pareggi, e che vuoi fa? Quella partita vinta, chiaro, che invece pareggi. Chiaro, in Argentina c'è stato secondo me un rigore molto generoso che io non avrei mai dato sull'1-0 all'80esimo, e vabbè, sì, forse la Fiorentina negli ultimi 10 minuti poteva pareggiare. Sì, l'ha chiusa, ma non è... Non sono mille. Allora, comunque la cosa che io vi ho lasciato domenica alle 19, che si parlava di arbitri con l'elmetto, perché abbiamo ricevuto decine e decine e decine di telefonate e di messaggi, torno venerdì dell'oca alle 14 e di nuovo mi riproponete il polpettone di Commisso. Ma certo, ma il gioco dell'oca, no? Si torna al via. Per esempio c'è Maurizio Crosetti, che è molto rinfrancato dal fatto che si è sciolto il mistero e Ronaldo è andato a Sanremo, quindi può tornare a dormire serenamente, non sonni agitati. Ciao Maurizio. Sì, ecco, no, è vero, effettivamente avevo perso il sonno su questa cosa, e adesso per fortuna lo posso ritrovare, quindi insomma siamo tutti più contenti, più tranquilli, anche perché abbiamo capito perché hanno chiamato Giorgina a Sanremo. Sì, e le hanno scucito anche 140.000 verdoni, ma questo, sì, questo è un altro film. Immagino che l'abbiano chiamata per avere Ronaldo seduto in prima fila, perché non vedo nessun'altra ragione per cui potessero chiamare un soggetto simile a non fare quelle cose. Dire, fare, baciare, lettera, perdere, testamento, e noi siamo tornati al gioco dell'oca, dicevo prima, cioè sbagli, sì, tiro dei dadi, torna al via, si torna a parlare di Commisso, però insomma ci tirano anche per la giacchetta, dato che Fonseca, anche lui, ha aderito al partito del presidente della Fiorentina. E dicevo prima, in apertura, strano come aderisca adesso dopo aver fatto 4 punti nelle ultime 5 partite. sembra veramente che noia, che barba, che barba, che noia, come diceva chi era, Sbirulino, non so, la grande Sandra Mondaini. Sì, sì, nel senso, mi pare che ci sia da capire soltanto eventualmente lo stato d'animo deluso di perdere le partite magari pensando di non meritarlo. Questa è l'attenuante generica. Non mi pronuncio sulla Roma perché non ho visto tutti gli episodi a cui si può riferire Fonseca. Mi pronuncio anche se è passata una vita, c'era ancora Paolo VI Papa quando Commisso esternava e poi se la pigliava con Ned, però la partita io quella l'ho vista e, come diceva Piero un attimo fa, no, certamente la Juve non l'ha vinta per merito o per colpa dell'arbitro. Credo proprio che fosse un intervento scomposto. Certo. Da dietro, quando arrivi in ritardo prendi pallone, caviglia, erba, facendo una non cosa, se ne sentiva la mancanza. Senti, facendo una cosa molto rivoluzionaria, cioè guardando avanti invece che indietro, a Verona servirebbe una Juventus un po' meno pallida. Tu oggi scrivi di Chiellini, servirebbe anche un recupero di Chiellini che ormai sembra dietro l'angolo? Sì, beh, quello toccando ferro, e Giorgio è il primo a toccarlo, perché ovviamente quando sei in prossimità del traguardo, no? Hai sempre paura di forare, e lui naturalmente al traguardo sta arrivando nei persino in anticipo sui tempi previsti, ma con grande cautela, tenendo conto di tutto. Però insomma, se tutto continua ad andare così, fine mese sta la prova e forse è già pronto il 1 marzo contro l'Inter. Insomma, dovrebbe giocare un po' di minuti contro la Spal il 22 di febbraio e poi capire. Poi decidiamo chi va fuori. Beh, va fuori De Ligt, nel senso che i titolari sono Chiellini e Bonucci. Chiaramente Bonucci Chiellini è convalescente a 35 anni, non potrà giocarle tutte. Il suo sostituto naturale non è De Ligt, ma è Demiral, che è fuori fino all'inizio della prossima stagione, quindi si alternerà con De Ligt, che è il futuro, ma insomma poi Chiellini dovranno recuperarlo sia per la Champions che per la Nazionale, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda Verona, sì, certo, bisognerebbe che la Juve fosse un po' più accorta, magari anche un pochino più disinvolta, anche se poi quelli davanti le risolvono tutte, ma quelli dietro no, e la Juve ha preso 21 gol in 22 partite, il Verona è una squadra piuttosto interessante e anche pericolosa, e la Juve lo sa questo, quindi trasferta di quelle non facilissime. Certo. Stiamo anche aspettando che la Juve si mostri un po' di più, ogni tanto lo fa con la Roma in Coppa Italia, lo ha fatto tantissimo, e poi di nuovo un po' meno con la Fiorentina, poco però comunque per gol assegnati, non lo so, continuo a pensare che tutto questo rinnovamento juventino non fosse così necessario se ha prodotto questo, però è come parlare dell'arbitro, cioè non ricominciamo sui perché di Sarri, perché non più Allegri, se no non sono né Ferrista né Allegriano, non sono niente. Anche perché avremo tempo dal 24 febbraio, quando torna la Champions, che è il grande... Quando comincia l'esame, quando comincia l'esame, siamo ancora ai preliminari, siamo agli invalsi. Siamo proprio all'exit poll, cioè i primi exit poll sono così, ma diciamo... è too close to call, come direbbero i sondaggisti, così dice in America, nel senso che in questo momento non è stanno rubando la bici, Piero. Il sensore di questa macchina, purtroppo non sapevo che fare, cioè se andavo avanti andavo a sbattere, se andavo indietro andavo a sbattere su quella dietro, tutto a posto. Secondo me no, gli exit poll sono discreti, nel senso che comunque la Juve è in testa alla classifica, nel girone dei Champions ha mostrato una buona maturità, ha fallito sicuramente in Supercoppa italiana contro una grande Lazio, e questo è quello che si è visto ad oggi. Però come diciamo spesso, cioè Sarri è stato preso perché non perché la Juve avesse problemi in Italia, tutt'altro, è stato preso per fare un salto di qualità nelle grandi partite contro le grandi squadre in Europa, per cui l'esame comincia il 24-25 febbraio. Arrivi a questo momento dell'anno e senti una drammatica necessità del 35enne Chiellini, perché senza non riesce a vivere nemmeno normalmente in campionato. Altro tema su cui vi chiedo un'opinione è quello dell'ufficio di collocamento allenatori, attivissimi in questo periodo dell'anno, ma anche ufficio di collocamento di altre cose, perché c'è la Revolución Spagnola e qui sognano un po' tutti, no? Il Barcellona ieri è finita a schifio in Coppa del Rey, e lo stesso per il Real Madrid, c'è aria appunto di revolution per le grandi di Spagna, e magari qualcuno sogna Messi sul mercato. Maurizio? Io dopo Ronaldo alla Juve non mi, non mi esprimo più, nel senso che ho visto sotto i miei occhi, anzi sotto la mia finestra, perché la seconda sera di Ronaldo a Torino andò a mangiare la pizza proprio sotto casa mia, e quando tu vedi Ronaldo dalla finestra che mangia la pizza puoi pure credere che atterrano i marziani in piazza San Carlo. Quindi l'anno scorso avrei detto 2 anni fa, ma figurati, sti Messi che lascia il Barcellona. Adesso San Tommaso ci ha messo la mano ed era il costato di Ronaldo, io l'ho toccato, quindi ho visto le ferite, le stimmate sulle mani e sui piedi, la ferita del costato, e quindi non mi, lo ritengo, continuo a ritenerlo davvero molto improbabile. Però intanto giochiamo al gioco delle ipotesi e delle suggestioni, e visto che facciamo anche un mestiere di ipotesi, di suggestioni, di immaginazioni, di fantasie, di desideri, no? E allora benissimo, no, io credo che verrà mai, non credo, andrà mai via da Barcellona, forse l'ultimissima parte della sua carriera, magari anche lui va a fare le vacanze negli Stati Uniti, no, in quel momento. Sì. Però io non credo, dopodiché è bello pensare che sia possibile. È bellissimo pensare. A me è successo una volta con Beckham, dopo un derby di Milano, abitavo in Corso Garibaldi, e sono arrivato tipo all'una di notte a casa dopo il derby, ho messo la cosa nella toppa e c'era Beckham che stava al ristorante lì sotto, e in effetti fa un certo effetto pensare che, no, che queste superstar, volevo quasi invitarlo alla riunione di condominio, ma non aveva tempo. Non c'eravamo neanche io alla riunione di condominio, quindi però fa un certo effetto. È possibile, guarda, ti dico, ha ragione Ricci, cioè non succede, non succederà, l'investimento lo sappiamo, è un investimento da tanto, ma, ma se succede potrebbe essere il momento. Ma se vabbè, deve succedere, Pier, se deve succedere, no, visto che vogliamo giocare sul filo della suggestione, è più suggestivo, bello, è più un sogno, vederlo con Ronaldo alla Juventus, pensa, Ronaldo e Messi non li hai mai visti insieme nella Juventus per un paio di stagioni, vivi questa cosa, o vedere Messi all'Inter per riproporre in Italia la sfida, o a Napoli a casa Maradona, beh lì mi Napoli, sembra difficile, Roma, no, mettilo, lascia stare, Napoli, Roma, Lazio non se lo possono permettere, neanche l'Inter, secondo me neanche la Juve, allora, però stiamo su quello che può essere più concreto, noi stiamo sognando, però almeno sogniamo delle cose che abbiano un allora, fondamento. All'Inter tutta la vita, all'Inter tutta alla la Juve vita. O all'Inter, dai? No, non alla Juve, perché sennò veramente il campionato... Beh, però sarebbe strepitoso, dai, Messi e Ronaldo insieme, però sarebbe strepitoso anche Messi all'Inter, Messi contro Ronaldo. Dai, sarebbe... Secondo me è nettamente più divertente Messi in una rivale, perché innanzitutto perché c'è una rivalità fra i due, e è chiaro che è divertente e stuzzicante l'idea di vedere giocare Messi e Ronaldo insieme, però poi... Diciamo che il campionato lo chiudiamo il 14 settembre, decidiamo, no, cioè, voglio dire, dal punto di vista del movimento calcistico sarebbe una grande sfida che una delle rivali della Juve raccogliesse questa. L'investimento è da 360 milioni in 3 anni, ecco, una cosetta così, perché comunque ammesso poi che lui voglia andare via, perché poi in tutto questo conta la volontà del giocatore, il giocatore a differenza di Cristiano Ronaldo, e questo è un tema secondo me a favore dei ronaldiani. Insomma, Ronaldo si è messo in discussione alcune volte nella sua carriera, si è adattato a stili di calcio diversi, Messi è rimasto sempre nella sua comfort zone. Ora stiamo parlando di un genio assoluto, di un mito, cioè, per carità, però è oggettivo che lui è rimasto sempre lì dove si trova benissimo. Quindi, non si è mai confrontato con altre realtà, e quando lo ha fatto con la nazionale argentina non è riuscito nell'intento. Un'ultima cosa per Maurizio Crosetti, che poi ringrazio e saluto, forse ha ragione Pirlo, strano, non un frillo qualunque, quando dice che le teste calde di Conte e Ibrahimovic accenderanno il derby, un derby che ha tanti riflessi, tante facce, tante sfaccettature, una favorita chiara, una grande attenzione soprattutto per quanto riguarda l'Inter, per quanto riguarda lo scudetto, eccetera. Maurizio? Beh, speriamo che lo accendano loro e pure gli altri, perché il grande vuoto di questi anni si chiama Milano, il grande vuoto nel calcio, ed è un vuoto che non può continuare ad esserci, perché è come se al calcio europeo mancasse Madrid, no? Insomma, Milano è uno dei centri, uno dei cuori pulsanti della storia del nostro calcio, e quindi deve tornare a pulsare in un certo modo. Quest'anno Milan sta facendo una grande fatica, ma pare in ripresa, e per quantomeno è uscito dalla rianimazione. L'Inter ha fatto grandi passi in avanti, sta molto meglio degli anni passati, quindi sembra sta proprio crescendo lanciata a doppia velocità. Sì, sembra lanciata proprio verso di nuovo quel vuoto che c'è lì da un po' di tempo, e appunto, come dicevo, che si chiama Milano. Il derby può essere un'occasione per confermare una ritrovata presenza, ecco, no? per dire o forse anche per gridare eccoci. Uh-huh. E noi siamo contenti di ascoltare quel grido, non per questioni naturalmente di tifo, ma di partecipazione, perché chi ama il calcio lo ama tutto e non vuole vuoti, vuole solo tutto pieno. Sì, tutto pieno è sempre San Siro. Questa è un'altra storia, che insomma, l'Inter festeggia un milione, ha superato un milione di presenze e siamo all'inizio di febbraio. Che è pazzesco, è un dato, è qualcosa incredibile. Se vuoi vi do una notizia, se vi interessa. Vai. E cioè Ibrahimovic oggi ha fatto metà allenamento in gruppo e metà personalizzato, il che non è confortante, essendo il venerdì dell'antivigilia, ma insomma le voci che arrivano è di un Ibrahimovic che comunque è mentalizzato per essere in campo sia domenica sera nel derby che giovedì contro la Juventus, perché il Milan ha poi quell'impegno a metà settimana contro la Juventus, la semifinale d'andata di Coppa Italia. E dunque, pur essendo oramai più di una settimana che Ibrahimovic non si allena per un giorno intero con il gruppo, c'è un passettino avanti. Sì, poi qualcuno che ci guarda dall'estero dirà: beh, voi italiani siete legati alle gite a Sanremo di un 35enne e al polpaccio malandato di un 38enne. Sì, ma va bene così, ma va bene così. Va bene, sì, lo teniamo. Angelo Soggiu, fra l'altro, come ho scritto l'altro giorno, sosia di Angelo Mangiante, cantante dei Ricchi e Poveri, e viva, come il discorso facciale prima per Chiellini. Chiellini ha 35 anni, d'accordo, ma è Chiellini, cioè sono le famose eccezioni che confermano la regola. Non è che la... No, ma poi l'abbiamo detto, ma il vintage è estremamente di moda poi in questa stagione. No, noi vanno di moda quelli bravi, e non vanno di moda quelli scarsi, che in generale si debba avere un'idea, ma questo parlo proprio della società, legata ai giovani, cioè che questo non sia un paese per giovani, ed è mille cose che possiamo dirci. È vero che oggi in Italia se hai meno di 50 anni vieni considerato giovane, in altri paesi il rinnovamento è molto, ma su mille settori della vita. Però poi Ibra, Federer, e quando Sinner batterà Federer saremo tutti estremamente felici, se mai un giorno succederà. Ciao Maurizio, grazie. Ciao cari, baci. Ciao Aldo da Pisa, poi chiudiamo questa prima metà di programma e poi nella seconda, c'è il derby, ordine Biasin in arrivo. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. A proposito di Sanremo, io non l'avevo mai più visto. Ieri l'ho visto solo perché avevo capito che c'era Bartoletti, l'avevate detto voi, però non l'ho visto. E non è che canta? Ah, pensavo che dovesse cantare con la Lamborghini. Avevate detto che faceva il duetto. Sono degli imbroglioni, ma perché lei crede ancora a Turini e Bartoletti? No, ma l'aveva detto, mi pare, uno di voi due. No, Genta o Pardo, non lo so. No, l'avevano Genta, detto ha loro. Ha detto Genta. Per ingannare i radioascoltatori. Non ho detto niente di tutto questo, l'hanno detto loro e vi hanno gabbati ancora. Adesso si spiega il 54,5% esatto. Della maggioranza. Ma noi, vero Pier, credo anche tu, noi siamo iscritti al partito di Sarri, facciamo parte del 45,5%. No, io lo guardo Sanremo. No. Perché aspettavi Bartoletti? Anche no, tu. No, perché voleva vedere se c'era Cristiano. Uno può decidere di non guardare Sanremo perché c'è di meglio da fare. Per esempio, io la prima sera. Ah, io avevo la storia del fantacalcio ieri sera. Quindi. Ma no, ma per carità, il massimo rispetto. Però dico, cioè, lo snobismo del non guardare Sanremo, che poi tanto ormai è al 30% una competizione musicale fra i nuovi e al 70% un grande evento. Che mette dentro tutta l'Italia, quindi è un grande happening. Sì, ma va bene, ma che male c'è? Fossero questi problemi. Certo. No, però certo che il combinato disposto, voglio tornare per chiudere su quel dato che citava Giovanni, combinato disposto tra quel dato del milione di spettatori dell'Inter, è un trend che comunque va avanti da molti anni. Anche il Milan ha una media superiore abbondantemente ai 50.000, e non c'è neanche la spiegazione del fatto che stia facendo una grande stagione. Esattamente razionale. Come l'Inter è andata sopra i 60.000 e abbondantemente sopra i 50.000 già da almeno 3 anni, e non sempre in corrispondenza a delle stagioni o dei momenti di stagione straordinari. E io credo che ci sia una doppia spiegazione. La prima è che Milano ha voglia di calcio e ha voglia di calcio che torni a essere competitivo, e comunque l'Inter sta terza in classifica, seconda in classifica, è stata prima per alcune settimane, quindi è abbastanza semplice dire che questa è una grande stagione per l'Inter, e così come lo è stato da quando è arrivato Suning. Lo stesso è successo, credo, per tanti tifosi del Milan, poi si sono disillusi, ma non devono mollare perché il Milan tornerà grande. La seconda notizia, che secondo me c'è dietro a tutti tutte queste cose, che non dobbiamo illuderci che le tifoserie di Inter e Milan amino più le loro squadre rispetto alle altre. C'è dietro anche un grandissimo lavoro delle due società per strutturare tutto ciò che c'è intorno allo stadio, e da questo punto di vista Inter e Milan sono insomma un buon esempio. E questa, questa ragione forse pesa di più della prima. Dimmi. Apparentemente in controtendenza, cioè San Siro rimane grande, cioè uno stadio comodo, uno stadio bello. Sì. Poi questo non toglie che si possa ragionare su farne un altro, e anzi, ripeto, è molto sano che Milan e Inter vogliano capitalizzare, vogliano costruire, cioè è tutto sanissimo. Però insomma San Siro è uno stadio dove si va volentieri rispetto ad altri, perché è uno stadio comunque che ha servizi, dove la partita si vede bene, dove c'è comunque la copertura, cioè rispetto ad altre situazioni sicuramente è un posto bello, è un posto certo. Bello. Poi certo. Sicuramente c'è il marketing delle due squadre, l'Inter ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi anni, il Milan pure direi, quindi insomma... C'è sì. Tutto questo, poi, no, poi appunto il combinato disposto, una parte era quel dato degli spettatori e l'altro è l'idea di uno stadio più di dimensioni più ridotte. Beh, ma quello mi auguro quello vedremo presto. Vedremo adesso credo che tra vedremo, qualche settimana no. avremo le risposte, capiremo che cosa succede a Milano, però poi l'idea di uno stadio che sia a misura di un 95-98-99% di riempimento sempre sì. È una scelta strategica che hanno fatto tutti quelli che hanno potuto fare un progetto nuovo sullo stadio, lo ha fatto la Juventus, lo fanno all'estero, e quindi insomma non bisogna sorprendersi che si cerchi poi di massimizzare sì, gli introiti. Poi c'è qualcuno che dirà così i biglietti invece di costare 50 euro saranno 100. Succederà come già oggi succede, perché andare a vedere certe partite a San Siro, visto che stiamo parlando di Inter e di Milan, è diventato quasi un privilegio per pochi. Invece andare a vedere altre partite, e da qui c'è il riempimento di questo grande stadio anche in occasioni minori, che fa poi la media totale, e invece è diventato un modo che usano Inter e Milan per portarsi più gente. Però succederà, sta già succedendo a Torino, quando è arrivato il nuovo stadio è successo nei primi 6, 7, 8 anni con dei tassi di crescita anche importanti, i tifosi giustamente anche si sono lamentati, però poi alla fine tiri una riga. Se tu vuoi un club che possa comprare Cristiano Ronaldo, vuoi un club che possa pensare a Messi, deve che possa tornare competitivo, insieme a tante altre cose ti devi anche abituare che a un certo punto i biglietti costano. Vale anche per Napoli-Barcellona. Sì. Ti dico che secondo me la Juve, forse col senno di poi, vista la crescita, ed è merito della Juve gli ultimi anni averla fatta, ma vista la crescita e i risultati di questi anni, forse 10.000 posti in più. Io non credo, sai, no, alla fine si crea anche quell'effetto evento, no? Si crea anche quell'effetto evento. 10.000, non ti sto dicendo che la Juve voglia uno stadio da 80.000, ma secondo me 10.000 posti in più non avrebbero dato fastidio alle casse, e la Juve l'avrebbe riempiti 8 volte su 10. E Inter e Milan devono pensare a uno stadio da 70.000, secondo me. E invece sarà meno. Anche 65 sempre pieno non è un brutto andare. Ne è un brutto affare. Ci fermiamo per la borsa, torniamo. La Roma ha pianto tutta la settimana, non è la prima volta che lo fa, e questa sera troverà il Bologna, una penso delle più tartassate a livello arbitrale, e quindi stasera prepariamoci all'ennesimo torto subito dal Bologna per bilanciare i presunti torti subiti dalla Roma. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Non so se ieri sera avrò visto Sanremo, se avrò apprezzato Ronaldo in prima fila al festival, se le ha fatto delle raccomandazioni, se tornare a casa non troppo stanco. Battuta a parte, come sta Ronaldo? Io non ho visto Sanremo, mi hanno detto Giorgina sta brava, ma non lo so, ho lavorato fino a tardi e poi per rilassarmi ho messo un film e non ho guardato niente. Sicuramente Ronaldo ha riposato le ore giuste. Conoscendolo su questo non ho assolutamente nessun tipo di dubbio, quindi oggi si presenterà all'allenamento in buonissime condizioni, o mi ha sempre fatto negli ultimi tempi, da quando il ginocchio non gli dà più fastidio. Quindi Sanremo non è un problema. No, allora, quindi Sanremo... No, ma aspetto che ci sia Fabrizio Biasini. Adesso tra poco arriva, perché è impegnato in interviste sanremesi, anche perché non possiamo... Insomma, far sentire a Franco Ordine la mancanza del suo amico Biasin, no Ciccio, nei giorni che precedono il derby. Non soltanto perché, ma anche perché dobbiamo comunque chiarire un aspetto molto inquietante di queste ultime ore di Biasin. Sapete che sarebbe... a casa sua, e come no, ma non sapete che a casa sua è successo l'inferno, dalla fidanzata, dalle ex fidanzati, parenti, di amici più stretti, condomini, sono tutti ingelositi dalla sua foto con Ornella Manuni. Ah, questa non la sapevo. Ce la siamo persa, ma poi gliene chiediamo conto e ragione. Anch'io sono un po' offeso, onestamente, perché non credo di avere una foto con Biasin, neanche con Ornella Vanoni, per la verità, purtroppo. Senti, ma Giovanni mi dice che Ibra gioca, ha fatto mezzo allenamento col gruppo, mezzo no. Io credo che l'argomento sia: qual è il rischio se gioca con questo fastidio al polpaccio, risentimento, mezza contrattura, non so cosa sia, qual è il rischio che corre, allora, a anni 38? Io non credo che lui, conoscendo se stesso meglio di chiunque altro, possa correre qualche rischio, perché è capace di amministrarsi durante la partita. Lui, l'ho visto fin dalla prima apparizione, come riesce a dosare gli scatti, le coperture, rispetto agli avversari, eccetera. Però se si allena a mezzo servizio, sarà un Ibrahimovic 38enne a mezzo servizio. È inutile pensare che possa essere l'Ibrahimovic di 10 anni prima, e quindi secondo me peggiorano ancora di più le quotazioni del Milan, e soprattutto secondo me ci sarà da capire con quali compiti, perché faccio un esempio: l'azione dell'Inter parte solitamente in maniera centrale da De Vrij. Ecco, ci vorrà qualcuno che gli faccia un po' da schermo. Se Ibrahimovic è così, probabilmente dovrà essere qualche altro a farlo. Cioè, tradotto, potrebbe giocare Rebic e non Leao. Esattamente. Nel senso che Leao è un po' leggerino tatticamente, per immaginare che possa impegnarsi nella fase di copertura, esatto, mentre Rebic è un giocatore da questo punto di vista più solido e strutturato, anche fisicamente più solido, perché Rebic, cioè, insomma, è un giocatore che ha una sua consistenza. Certo che io continuo a pensare che il derby in questo momento sia terribilmente sbilanciato a favore dell'Inter sul campo. Se poi vuoi, ti sappiamo, do una testimonianza. Qualche ora fa, parlando con un mio vecchio amico che ha fatto anche l'allenatore del Milan nel passato, con qualche successo nelle coppe internazionali, gli ho chiesto, Carlo, si chiama Carlo come te, sì. E gli ho chiesto... Questo scusa, non ho capito di chi si tratta, sì. Non era un allenatore della giovanile, sì, sì. Sì, gli ho chiesto scusa, ma secondo te... Carlo Barzellotti. Esatto. Lo chiameremo secondo così. Secondo te come si può... Come può il Milan tentare di riuscire a vincere questo derby? E lui mi ha detto: ma sei il solito pessimista, un moto c'è. E dico: scusa, qual è? Andare in chiesa e pregare. Sì, però Franco, nei tuoi 70 anni di professione giornalistica, sì, ne avrai visti due o 300 di derby in cui la squadra che era battezzata spacciata poi alla fine ha portato a casa la partita? Ma non è mai stato quello successivo a una riflessione del genere. 70 anni, considerato che nei primi anni di vita hai studiato, hai fatto altro, quindi ti ha dato del centenario. E soprattutto ho vissuto in quella splendida città che si chiama Foggia, perché io sono qui a Milano dal 77. Quindi Pierluigi, ma tu lo conosci bene, fa lo scaramantico, o c'è un fondo di verità in quello che dicono lui e il suo amico allenatore delle giovanili? È pessimista innanzitutto perché diciamo Milano e in generale l'Italia è piena di chiese, quindi può andare, cioè puoi trovare chiese per pregare in qualsiasi momento, ma a parte le battute, perché secondo me non è così, cioè che l'Inter sia più forte del Milan non c'è dubbio, lo dice la classifica, ma che nella partita secca l'Inter non se la porti da casa, secondo me è altrettanto oggettivo. Io ho visto l'Inter pareggiare in casa col Cagliari, con tutto rispetto, faticare per un'ora a Udine, pareggiare a Lecce. Io non credo che sia una partita così squilibrata. Poi che l'Inter abbia più soluzioni, forse più cattiveria agonistica, più autostima, e quindi insomma che tutti i segni più siano a favore dell'Inter, soprattutto se Ibra dovesse essere a mezzo servizio, è discutibile. Però cioè, noi abbiamo assistito 2 settimane fa al derby di Roma, che era al contrario, no? Cioè, certo. La Lazio era più forte e Roma è stato meglio. Poi hanno pareggiato, ma Roma è stato nettamente meglio. Questo un po' perché il derby può essere pure un ulteriore acceleratore, no? Di energie, un rallentatore dall'altra parte. Aspetta che ho perso il contatto audio con Houston. Ma il problema però io credo sia il Milan, perché abbiamo visto il Milan nelle ultime partite e i risultati sono stati spesso uno specchio deformante di una realtà che non era così brillante. Il Milan, però, non mi è piaciuto. Però un po' il problema è anche occasioni. L'Inter, perché deve aggredire il Milan, secondo io, me. Io credo, ad esempio, non so cosa pensa Franco, che sia abbastanza particolare. Oggi credo ci fosse scritto più o meno su tutti i giornali, ad esempio il ballottaggio Vessino-Eriksen, che se tu torni indietro semplicemente di 15 giorni è qualcosa di incomprensibile, perché Vessino era l'emergenza 15 giorni fa, diventa adesso l'alternativa a Eriksen. E invece c'è il tema di quale Inter Conte metterà in campo, posto che Eriksen deve essere nel titolare, ma posto anche che evidentemente non c'è stato il tempo per organizzare intorno un Inter un po' diverso. Lo abbiamo visto anche a Udine nei 60 minuti in cui Eriksen è stato in campo, quindi ci sarà comunque o in un verso o nell'altro un po' di improvvisazione. Però se l'Inter sembra poi un paradosso clamoroso, però se l'Inter studia l'Udinese che ha giocato a San Siro, il Brescia stesso, soprattutto nel primo tempo di Brescia, il Verona che domenica ha giocato a San Siro meglio del Milan, ecco, se guardi le partite di queste squadre che non sono esattamente Real Madrid e Barcellona, insomma, puoi capire che forse come affrontare il Milan, cosa che Conte saprà benissimo, Ciccio. No, ma allora guarda, poco fa Giovanni ha fatto l'elogio del mio amico Antonio Conte, ma se non fa giocare Eriksen c'è una spiegazione didascalica comprensibilissima, è perché non è ancora in possesso della password per giocare nelle sue squadre, perché non pensate che il calcio preparato e perfezionato da Conte per l'Inter sia casuale, cioè come capita se il giocatore tale va a destra o il giocatore tal'altro va a sinistra. No, non è così, devi entrare nei meccanismi, non nella gabbia degli schemi, ma nei meccanismi, sapere perfettamente cosa fare. E poi c'è un altro aspetto che io considero derimente di questa questione sul pronostico. Cioè il Milan ha apertamente 2 punti deboli che sono sui 2 lati della difesa. Sì, esatto. Calabria, e infatti lì hanno picchiato durissimo sia l'Udinese che il Verona. Oh, benissimo. E dall'altra parte Teo Hernandez, che ha qualità offensive indiscutibili, ma ha difetti difensivi altrettanto noti. Quindi se tu da lì schieri quei 2 cavalli arrivati dalla Premier League, secondo me lì li metti in grandi difficoltà e lì secondo me si deciderà il resto della squadra. Sì, sono d'accordo. Allora fermiamoci per il traffico, poi andiamo da Biasin. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. E adesso Giorgina, dopo questa bellissima esibizione, è a te il piacere di lanciare una star internazionale che conosce bene anche l'Italia e Sanremo. È una star che si chiama Fabrizio Biasin. Come diceva Franco Ordine, caro Biasin, quanto siete pirla, ma veramente. Posso dire una cosa? Io una cagata così non la penso della storia di tutti i convocati, è veramente, c'è da essere orgoglioso, non so chi l'ha fatta, ma complimenti. Beh, Claudio Schiattone e Gianmarco Ferronato sono due menti chiarissime della letteratura italiana, ma straordinario, grande qualità, grande qualità. Sì. Ci sono delle domande che però entro, non fate censura, entro le 14:58 bisogna fare a Fabrizio Biasini, però adesso procediamo con le cose serie. Le cose serie adesso sono quelle del fatto che Franco Ordine mi diceva che faresti bene a non tornare a Milano perché ti aspettano a casa col Mattarello. Perché? Perché mai? Perché mai? Invece, lo sai benissimo, dai. Guarda, non fare lo gnorri. Ma va, quarto giorno di Sanremo, io non vedo l'ora di tornarmene a Milano e vado, non passo neanche da casa, mi tuffo direttamente a San Siro. E c'è il derby. No, dicevo, scusa Fabrizio, dicevo che a casa tua c'è l'inferno. Gelosissima soprattutto al tuo fidanzato quando ha visto la foto con Ornella Manoni. Sì, questo sicuramente, però nel frattempo invece la mia fidanzata gli frega minimamente che io sia qua, si fa i fatti suoi, feste, cene, non ne può fregare di meno, guarda, per cui meglio se torno a controllare. Perché non è che puoi utilizzare tutti i convocati per parlare delle tue cose, queste banali questioni di gelosia. Tra l'altro la gelosia è sopravvalutata, come del resto anche l'amore, lo sapete, quindi sì. Sono sentimenti che non sono più di moda. Fabrizio, ma tu hai fatto il trenino, quello per i ricchi e poveri? Allora, io però rispondi sincero. Era questa la grande Rispondo sincero, faccio autodenuncia. Mentre c'era il trenino in corso, io ho approfittato perché tutti facevano il trenino. Io sono andato a prendermi un gin tonic che non c'era coda al bar, per cui mi sono perso il trenino. Ma no, che Piasina abbia. Come hai ricevuto? Perché ti sei concesso questa bevanda? È così. Mi sembra un Biasino bello carico e quasi disinteressato alla partita che lo aspetta. No, adesso però lo riportiamo subito sul piano della realtà. Allora, la testa carissimo Fabrizio, qui tutti hanno detto che non devi neanche andare a San Siro perché è fatta, è scritta anche Carlo Barzellotti, ex allenatore del Milan, amico di Franco Ordine, ha detto che il Milan vince solo se va in chiesa a pregare. Qui c'è il grande mani avantismo. Avrei potuto pensare la stessa cosa se mi avessero detto Ibra non ce la fa, ma da quello che ho capito Ibra ce la fa, per cui si equilibrano le situazioni, però secondo me è una partita niente affatto scontata. Sì, però sarà un Ibra a mezzo servizio e già se quando è a servizio intero è metà dell'Ibra che era prima, quindi un quarto di Ibrahimovic, mi sembra di essere allenatore nel pallone. Sì, però è anche vero che dall'altra parte manca il capitano, nonché portiere, secondo me più forte della Serie A, che è Handanovic. Tu sei sicuro che non gioca? Sicuri? Non lo so, la sensazione è che non giochi. Se voi avete informazioni di prima mano, qui a Sanremo giunge voce che non sarà in campo, però non lo so. Non l'ho schierato a fantacalcio. Possiamo avere delle informazioni. No, Sanremo però è molto lontana dall'altra parte della luna, qui a Milano, che si dice? No, io credo che tra le tante partite sacrificabili, lo so che può sembrare un paradosso, ma il derby sia quella più sacrificabile, quindi probabilmente starà fuori, perché poi l'Inter nell'arco di 20 giorni va all'Olimpico con la Lazio e a Torino con la Juve in campionato, ha la doppia sfida con il Napoli di Coppa Italia, torna all'Europa League, per cui ci può anche stare che ci sia un attimo di prudenza in più, però lui ha lavorato questa settimana con l'idea di esserci, o almeno di crearsi la possibilità di esserci. Beh, il mani avantista Ciccio Ordine cosa dice? No, io non sono il mani avantista. Come no? Io dico l'ha detto Biasini. Sono letteralmente disgustato dalla macumba di Biasini, che è una roba squallida, devo dire, francamente. Che macumba? Ma come macumba? Perché, ti dico francamente, perché se l'Inter non vince questa partita e non la vince soprattutto in maniera bella, sciolta e disinvolta, c'è da farsi qualche domanda e da dare qualche risposta. Franco, ti ricordo che in realtà gli ultimi 5 o 6 derby si è sempre detto ma il Milan arriva favorito perché è il periodo ideale, questo e quell'altro, e poi è sempre finita male, per cui col cavolo che faccio questo giro di considerazione. Il derby dell'andata come è finito e come era stato presentato? No, hai ragione, sul derby dell'andata sicuramente, ma io mi ricordo quello del pum pum pum l'anno scorso, Pionte che vi fa questo e quell'altro, sì certo. No, però la lettura, secondo me la lettura corretta è quella che ha dato Franco prima, dal punto di vista tattico e parlando seriamente, cioè è un Milan che ha dei sì, però chiari ci sono punti ad esempio deboli, dei sottotemi chiari. Perché se io torno con la memoria al derby d'andata, ricordo ad esempio per ben più di un tempo Godin in difficoltà con Leao. Se devo immaginare Godin, non c'è Bastoni, probabilmente giocherà Godin con Theo Hernandez. È vero che poi magari Teo Hernandez soffre, come ha detto Franco, chi si trova da quella parte lì su quel corridoio, però ci sono dentro il campo alcune situazioni tattiche che possono essere leggibili in maniera differente. Io non credo che sarà un derby così facile, perché ne ho visti pochissimi di derby facili, ho metà degli anni di Franco Ordine, però da una parte e dall'altra ne ho visti pochi di derby nati e morti con lo stesso segno. Anche perché l'Inter, dai, diciamo, non arriva da prestazioni sconvolgenti per bellezza. L'unica, secondo me, vera buona notizia è che rientra titolare Brozovic, che per come la vedo io è l'unico vero insostituibile in questo momento di questa squadra. Eh sì, anche perché insomma va bene, si dovrà inserire con cura Eriksen, e non è facile perché abbiamo detto più volte l'Inter spesso somiglia più a una pattuglia militare che non ha una squadra di facile comprensione. Devi essere in grandi condizioni fisiche e devi dare quello che dice Conte anche dal punto di vista fisico. Non so se in questo momento Eriksen da quel punto di vista lì ci stia dentro. Mentre per la Juventus a Verona tutto facile, Franco? No, assolutamente no, perché io l'ho vista sia a San Siro dal vivo che in televisione contro la Lazio. È una squadra, se Bolini non avesse avuto, diciamo, qualche esitazione, poteva addirittura nel finale inchiodare la Lazio a una sconfitta. Io ti devo dire francamente che è una squadra che gioca molto a uomo, e questo fa soffrire soprattutto le squadre di Sarri, ed è una squadra che mi sembra in grande salute. Poi dovrebbe recuperare il vero regista del centrocampo, che è Amrabat, e quindi io penso che non sarà assolutamente cosa semplice vedersela con Juric e compagnia. E smonta il Verona, smonta Piero ogni teorema secondo cui devi avere un grande centravanti. Il Verona gioca senza attaccanti, sì, e quindi dimostrando che il ruolo di grande attaccante è sopravvalutato. Anche perché poi Ronaldo è ancora in platea qui all'Ariston, per cui ci dai una notizia. Ancora lì seduto, non c'è, lo sa. È il tango. No, io penso che domani sia un grandissimo test. Per le situazioni che si sono create fino a questo momento, per il pareggio della Lazio, domani è una partita secondo me assimilabile a Napoli-Juve, cioè una partita nella quale la Juve vincendo darebbe un segnale fortissimo anche psicologico alle rivali, e contro un avversario complicato. Verona gioca benissimo, sono d'accordo con te, sicuramente è una squadra che si esalta soprattutto quando ha un po' di spazio a disposizione, non ha il centravanti da 15 gol alla stagione, però fa buon calcio con l'Olimpico, alla Roma, sì, ciao, a Roma, all'Olimpico con la Lazio l'ho vista veramente molto bene, col Milan ho visto gli highlights e mi sembra che comunque abbia sfiorato addirittura la vittoria, cioè arriva con una salute clamorosa. L'unico dubbio può essere un po' di stanchezza, perché indubbiamente tre partite come queste in una settimana possono pesare. Poi c'è l'aspetto ambientale, che è clamoroso, perché comunque mette gol di tutto esaurito, è un grande test, e non è detto che questa pressione non possa, magari può far bene pure alla Juve, cioè sì, può dare pure alla Juve, diciamo, il senso e la sacralità di una grande partita. Certo, non è detto che sia la Juve una delle migliori mediamente, l'ha fatto vedere nelle grandi partite. Certamente. Le prossime ore di Fabrizio Biasin quali, come saranno? Come si svolgerà la tua marcia di avvicinamento al derby? Allora, io in questo momento devo fare le pagellone di Sanremo, sì. un paio di interviste, una a Francesca Sofia Novello, la signora Rossi, per cui diciamo che la giornata è piuttosto impegnata, però poi devo ricordarmi di fare le formazioni del fantacalcio, perché stasera ce l'anticipo, giusto? Sì. Mi confermate? E poi parte la lunga serata che dovrebbe terminare attorno alle 3:30 del mattino, perché stasera cantano il 24 e ci sono 77 ospiti. Posso approfittare della presenza e Ordine per dire a tutti quelli che dicono tiki-taka fatelo un po' prima, ecco, diciamo che dopo Sanremo abbiamo rispostato il fuso orario della TV italiana, per cui insomma, adesso lunedì finiamo, voglio finire dopo le 2:30. Condivido. Possiamo prolungare anche fino alle 3, perché ho voglia di cantarle a tutti. Hai voglia di cantarle a tutti, soprattutto a Biasin. Sì, no, che avrà lunedì si presenterà tutto tronfio dopo aver vinto il derby. Comunque, sì, ragazzi, sì. Io non so se vi capiterà anche a voi, ma un pranzo con Ornella Vanoni è un'esperienza. Nel senso che mangia cosa? Di che avete parlato? Ha parlato lei di tutto, un personaggio straordinario. Ti conviene non ripresentarti a casa a Milano? Di calcio non abbiamo parlato, purtroppo. No. Niente. ti conviene non rappresentare. Ha parlato di tutto, non ha parlato di calcio, vabbè, questo no. Quindi era l'unica ignara della presenza di Cristiano Ronaldo a Sanremo, Ornella Vanoni. Ha detto, ma chi è quel ragazzo lì in prima fila? Sì, ti do le notizie io su Biasina a Sanremo. Io lo controllo passo abbiamo passo. Un minuto, vai, spara. No, lei al massimo conosce Cristiano Malgioglio, che era in prima fila anche lui l'altro giorno, è uno spettacolo pure lui. Comunque qua sono tutti pazzi, io ve lo dico, cioè sembra di essere veramente... Quindi sei in ottima compagnia, fai Pandan senza grandi problemi. Sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, è stato bellissimo, andrei avanti ma non posso perché abbiamo finito il programma che riprenderà domenica alle 17, tutti convocati. Sì, ci aggiorniamo domenica alle 17, anzi Franco e Fabrizio, adesso che siete sulla strada di San Siro, se volete passare una mezz'oretta alle 6, vi accogliamo con grande piacere. Lasciate il nome alla reception e poi vi facciamo salire. Sei ottimista sulle possibilità di un ritorno a Milano di Fabrizio Biasini. Se parte a piedi alla fine dell'ultima serata, secondo me ce la fa. Ciao a tutti, Claudio Schiattone, Gianmarco Ferronato, ci sentiamo domenica alle 5. Venga, è stato una montagna russa. Ciao Radio 24, saluti.